Siamo sempre con Gabriella Cialdone e siamo sempre con il nostro podcast. Parlando di curatori, a parte Malaguti che abbiamo già parlato in un altro podcast, curatori italiani di collane, riviste, quali sono quelli che tu ricordi con maggior affetto, serietà, eccetera, eccetera? Con maggior affetto non saprei dire, perché non ne ho conosciuti tantissimi, se non magari per telefono. Sicuramente un personaggio che non si può non citare è Isidoro Cremaschi, che ha dato veramente tantissimo e ha varato alcune iniziative che poi sono durate troppo poco, secondo me. D'altra parte, la fantascienza italiana è così. Muor giovane colui che al cielo è caro, non c'è niente da fare. Tantissime riviste purtroppo erano splendide, ma non sono riuscite ad emergere per i costi degli autori non italiani, perché a noi non è che proprio ci paghino sempre. E invece, parlando del rapporto che ho avuto con Lippi, con Curtoni, con Montanari? Ma sono tutte persone più o meno della mia età, quindi è un tipo di rapporto che sfocia facilmente in amicizie, risse da bar su no, è meglio quello lì, no, è meglio quell'altro, e anche cene, insomma. Quindi non è proprio un rapporto curatore-autore. Molto spesso, anzi, come autore mi potevo sentire anche un po' trattata un po' male, perché mi chiamavano sempre all'ultimo minuto. Anche Lippi me lo fece a suo tempo. Io buttai giù un'idea, lui mi disse, ma è per lui? E lui mi disse, perché non la scrivi tu? Io nei guai fino al collo, ma non c'è stato verso di fargli cambiare idea, e così l'ho scritto io.